Madre sublime del Redentore, porta del cielo, stella del mare, guarda i tuoi figli, vieni in aiuto, tendi la mano a chi è nel dolore. Vergine pura, tu che hai creduto, il Creatore hai generato, nello stupore dell'infinito, vieni in aiuto a me peccatore.